Ci sono le tremende di Euria. Iniziamo a dississimo una nuova puntata di Biografie Rivoluzionarie. Puntata su la storia del PKK, quel grandissimo partito dei lavoratori del Kurdistan che ha regalato tante gioie nell'ultimo periodo, combattendo l'ISIS, affermando il confederalismo democratico e facendo cagare sotto un pochino la Turchia qualche volta. Minchia, ma sei veramente lanciato oggi, eh? Sono un attimo caricato. Sei carico, va bene. Tremenda Iauria, avete 3 minuti e poi, anzi, 2 minuti e 50 circa e poi parliamo. Ciao. Pone la compañía, escuchamos camarón, no lamemos las heridas. Vamos a secarnos las lágrimas, mojándonos la garganta. Tira la fanta que traigo rosin, lleva pelo. Mira qué rico el veneno, como tiñe de colores el duelo sagero. Mal de amores, vamos de licor, para las malas rachas, tragos a marcha. Porque la vida no va solo de rutina, de almacero, de piscina. Y apágame este fuego con gasolina. Y entre la reu, los curros, los dramas, se escapa la semana. El día agobiante, claro, nos vemos y se nos va. Que yo sin vosotras no sé vivir. Vamos a ponernos de acuerdo. No quiero estar lejos de lo que nos pasa. Vamos a vernos. Escribimos biografía con tipes y con tachones, con letras medio torcidas, pero sobrar intenciones. Necesito cerca para calmarme la fatiga. Yo te invito a ron, tú pones la compañía. Escuchamos camarón, nos lamemos la serie. Y está marcada la carta, viene con trampa el tablero. Si pinta mal la partida, cambia la regla. No jugo, que mala pena. Y el drama con rumbar a tu sarana. Que aquí nadie baila pa' que cuando pincha mi comadre la gozadera. Carabanchera, la chusera, la periferia está en guerra. De aquellos nodos, estos barrios al calor del estrado. Puños en alto, la dignidad sobre la calle. ¿Cómo te descuides? De tu barrio a golpe de turismo, subida de alquiler y desahucio. Pero está la pa para enseñarnos que solo entre vecinas podremos salvarnos. Equilibrimos la vida en el alambre, apoyándonos para tirar para adelante. Entre compañeras podemos con todo, codo a codo, lo queremos todo. Rima, no me dejes sola en esta noche fría. Te necesito cerca para calmarme la fatiga. Yo te invito. E torniamo, prima che ci prima che parta una traccia super techno. Minchia, che sarebbe bello però. Non sarebbe male affatto. Magari poi la pompiamo. Assolutamente. Allora, vogliamo parlare del Partito dei Lavoratori per il Kurdistan, mentre cerco di caricare alcune canzoni tipiche e canti patriottici del Kurdistan. Oh, anch'io ce n'ho una, dopo... Oh, dimmela subito che vado a cercare la nostra fantastica libreria. Te la mostro dal mio computerino, così. Assolutamente. In segreto. Poi facciamo una sorpresa. Allora, il termine, sì. Il tema è... Ah, giusto, è vero, la versione del noto canto partigiano. Non diciamolo. Allora, va bene, se tu hai voglia di introdurre un attimo a grandi linee la situazione, io vado a ricercare questa canzone. Allora, innanzitutto toccava a te introdurre a grandi esatto. linee la situazione. Allora niente, dai, però cerchiamo dopo cazzo. La canzone. Allora introduco io. Quando andiamo a parlare di Kurdistan e di questione kurda, andiamo a parlare di un fenomeno che ha qualche millennio di storia. Quindi per cui siate con noi pazienti e pazienti, compagne, pazienti, donne, pazienti, non so, soltanto maschile, quando non facciamo un trattamento esaustivo di tutto quanto il tema, perché sarebbe veramente difficile in un'ora circa, un'ora abbondante di programmazione. Vi basti sapere che appunto, per dirne una, i curdi erano una componente importante già dell'impero arabo, quando ancora si poteva parlare, con calma, quando possiamo ancora... No, non funziona nemmeno così. Come? Quando gli storici fanno riferimento all'espansione della regione islamica, alla grande espansione dell'Islam, troviamo già una grossa componente della popolazione curda che è presente all'interno delle zone conquistate dall'espansione islamica, tanto che, e anzi tanto è importante la componente curda, che il comandante militare che riconquista Gerusalemme ai crociati, mi pare alla fine della seconda crociata, cioè dopo la seconda crociata, è un tale Saladin, cioè ricordato in Europa come Saladino, che è uno dei cognomi più comuni curdi, Saladin. Ed erano quindi una componente della popolazione del vasto impero musulmano, che poi diventerà impero ottomano molti secoli dopo, importante, e che è inserita, cioè che arrivava addirittura appunto ad esprimere comandanti militari che poi diventavano califfi, se non sbaglio. Perché il termine era quello. Quindi il popolo curdo è un popolo che si diffonde, che vive storicamente nelle zone a cavallo tra quelli che sono attualmente quattro stati, e anche qui, che sono Turchia, Siria, Iraq, Iran. E anche qui è singolare il fatto che un popolo, per essere descritto nella sua zona nativa, bisogna utilizzarne, per indicare le zone geografiche, regioni che sono a cavallo di quattro stati nazionali. Questo è uno dei temi che io e Davide, mentre preparavamo la puntata, ci siamo trovati più spesso ad affrontare, cioè quando si parla di Medio Oriente o di Vicino Oriente, a seconda di qual è l'impostazione geopolitica che porta alla definizione del mondo, quella zona lì è stata, diciamo, ribaltata, capottata, distrutta, frammentata a frutto e consumo, a uso e consumo delle potenze europee. Attenzione, ci viene selezionato un telefono da un ignobile spia che entra in radio di soppiatto. E cosa succede? Che quella zona del mondo che viveva di sue forme governative, ha vissuto di sue forme governative particolari per 8 secoli, perché era, diciamo, appunto sotto l'impero ottomano, che dopo la caduta dell'impero romano d'Oriente, diciamo che domina dai confini dell'attuale zona dei Balcani fino alle penisole arabe, fino al Nord Africa. Quella zona, dopo la prima guerra mondiale, con la dissoluzione dell'impero ottomano, salutiamo che ci ascolta in studio, vi viene divisa in stati nazionali su impronta e copia degli stati europei, ma che non erano in realtà espressioni reali di confini culturali o che loro già avevano, erano più o meno distretti amministrativi dell'impero ottomano. Lo sto facendo lunga, Davide? Ma mai! Ma assolutamente no. Ma allora saltiamo subito in avanti. No, io mi sto lasciando cullare, visto che ho anche una sedia con le rotelline, mentre tu parli mi cullo per le tue parole. Quindi è molto pure. Bello sapere che ti fai cullare. Fatti cullare. La questione quindi qual è? Che il popolo curdo vive le zone che sono del sud o sud-est della Turchia. Ha un nome particolare che però in questo momento mi sfugge, quella zona. Si chiama il nord del Kurdistan. Poi c'è il famoso nord della Siria, diventato famoso perché il teatro di intensi combattimenti contro l'ISIS, dove sta in questo momento la componente più forte, più organizzata, possiamo dire, e soprattutto riconosciuta perché mano militare si è fatta riconoscere. Cioè come si chiama il nord della Siria? Il Rojava. Il Rojava. Rojava. Dicevi il Rojava. Poi abbiamo il nord-ovest dell'Iraq e il nord-ovest, una parte del nord-ovest dell'Iran, che sono altre due zone che hanno nomi specifici, mi spiace purtroppo. E cerchiamo, adesso li cerchiamo, tranquilli, ascoltatori e ascoltatrici, adesso li cerchiamo e li diciamo. Le quattro zone del Kurdistan. Sono già arrivati 30 messaggi, diteci questi nomi. Siamo già nomi. Ingolfatissimi. Tra l'altro, se ci volete parlare, diciamolo sempre e subito, ci potete contattare da Facebook, purtroppo. Abbiamo una pagina Facebook, in questo momento sì, siamo un po' compromessi col capitale. Pagina Facebook di Radio ZM, abbiamo il canale Telegram sempre di Radio ZM, abbiamo la fantasticissima, gloriosissima, bellissima chat di Telegram che potete trovare scrivendo chiocciola Radio ZAM trattino basso chat, e ci scrivete immediatamente tosto, siamo proprio noi qui che vi rispondiamo assolutamente sì. Sì. Io su visto che nominavi l'Iraq, volevo aggiungere solo una piccolissima cosa, che appunto c'è una componente della popolazione irachena che è appunto curda, e questa cosa è stata utilizzata anche dagli americani negli ultimi decenni per i propri giochi geopolitici. Tanto ricordiamo il massacro di curdi che ha fatto Saddam Hussein prima della sua caduta, e invece i giochi geopolitici che sono stati fatti dagli americani sono stati quelli di sostenere un presidente di origini curdo, dato che questo ha portato anche delle complicazioni interne, perché sostanzialmente era una minoranza del paese ad avere un peso così grande dentro il governo. Sono noti i Peshmerga iracheni, che sono delle formazione militare curda, che però appunto risponde al governo iracheno e alleato con l'America. Possiamo quindi tornare a parlare della condizione, esatto, tu già hai citato i cugini dell'Iraq, poi ci sono i cugini invece dell'Iran, i curdi dell'Iran, che vivono un'altra situazione particolare, perché sono anche quelli riconosciuti dallo Stato iraniano, che gli permette una particolare autonomia in quella zona dell'Iran. Dalla fusione di queste zone si potrebbe trarre, dicono alcuni analisti americani, pensate voi, uno Stato-nazione con una popolazione considerevole, circa 35 milioni di abitanti, ma soprattutto che avrebbe nelle proprie mani la gran parte delle risorse petrolifere e minerali di tutta quanta la zona, perché i pozzi dell'Iraq sono un po' sul Golfo Persico e un po' nella regione autonoma dell'Iraq a guida curda, e che tra l'altro di fatto li rende molto, molto importanti a livello geopolitico in quella regione, in quel paese. E così via in tutte le altre zone. Le zone più fertili della Siria del Nord sono quelle sotto controllo dei curdi, le zone con grossi risorse minerarie della Turchia sono le zone controllate dai curdi e con più alta presenza di curdi. Gnam gnam, viene da dire a qualcuno. Assolutamente sì. E quindi come possiamo giungere all'oggi? All'oggi ci arriviamo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo già quindi affrontato lo smembramento dell'Impero Ottomano, operato da Francia e Inghilterra con patti segreti e anche azioni eclatanti alla fine della Prima Guerra Mondiale. Sono stati creati la Siria, l'Iraq, l'Iran, l'Egitto e vabbè, i paesi degli Emirati Arabi e del Golfo. Si è già creato un movimento nazionalista arabo che si contrappone a ciò che rimaneva del concetto ottomano, quindi turco, del controllo dell'intera area, e si coagulano intorno alle idee marxiste e leniniste che in quel momento giravano nel mondo. Bisogna sempre ricordarsi che c'erano, erano vive e attive, ma ci sono anche adesso. Magari sono vive e attive, ma sotto un'altra forma. Si va a costituire un partito marxista-leninista dei lavoratori del Kurdistan ad opera di Abdullah Calan e di suo fratello, beh, anche tanti altri e tante altre, che creano questo partito per raccogliere dal basso a sinistra le istanze anche nazionaliste dei curdi che intendono proteggere la propria identità culturale. Ah, sento quasi che stai invadendo qualche cosa che invece, insomma, tocca a me raccontare. Assolutamente, prego. Ti ho lanciato, dai, ti ho fatto un assist. Mi hai fatto una... di testa lo prendo. Ma attenzione. Canzonetta? Ascoltiamo una canzonetta. Canzonetta. Dai, chiudiamo questo primo blocco effervescente, spumeggiante, sì, quasi sì, brioso. Sì, siamo sì, proprio sì. Un prosecchino stasera. Sì, siamo sì, secondo me, appena pompi la canzonetta, gli ascoltatrici a casa diranno: cazzo, ma l'altra parte adesso arriva? La trappata, no. E adesso arriva. Mazza, ma sei carico veramente a bestia stasera. Porco cane. Ci ascoltiamo l'inno nazionale turco. Mi spiace, è impossibile dire cosa c'è scritto. Her Kurdebn. Non so cosa ho detto, mi spiace. Buon ascolto a tutti e tutte. Ci sentiamo tra pochissime. Questa è Biografia Rivoluzionaria. Siamo prosecchetti stasera. Siamo prosecchi. Prosecchi. Bentornati. Ed eccoci pronti. Adesso annulliamo il podcast sulla sinistra, che è di una trasmissione inutile che qualcuno chiama Zona Rossa, ma secondo me è soltanto spazzatura. E mettiamo un'altra canzone. Ma sì, ci hai deliziato un sacco di volte mentre tagliavo le patate a casa mia. Bravo, taglia le patate che è meglio. Va bene, quindi stavamo dicendo? Stavamo dicendo che siamo negli anni 70, per la precisione nel 1978, quando nasce il partito dei lavoratori del Kurdistan, PKK. E siamo, poco prima della nascita, siamo ancora nel 74, quando nel pieno dei movimenti studenteschi in Turchia, Öcalan prende parte alle proteste. Lui è studente di scienze politiche ad Ankara e insomma ha un ruolo importante in manifestazioni, cortei e nei suoi movimenti giovanili. Quando nel 78 nasce l'organizzazione, appunto di matrice marxista-leninista, l'ideologia socialista rivoluzionaria è quella per il riconoscimento dell'identità curda e il distacco dallo Stato turco. E, insomma, in questo periodo c'è una forte vicinanza con le ideologie di un socialismo novecentesco che in quel momento vede nell'Unione Sovietica la guida, no? E quindi staliniste. C'è un'impronta molto statalista e anche la rivendicazione curda del proprio territorio, della propria autonomia, gira molto intorno al concetto di Stato-Nazione. Addirittura in quel momento, ma fino anche a tutti gli anni Ottanta, lui proprio vede come qualcosa di negativo la mancanza di patriottismo. Poi, negli anni seguenti, ci sarà un po' una svolta che è interessante andare un po' ad analizzare. Il plot twist della puntata, diciamo, il momento in cui la trama cambia e tutti rimangono scioccati. Ma come? E chissà se ci sarà un prequel un giorno. Tipo prima della nascita di storia, bello. Storie di ciuci anche magari. Storie di storia. E vabbè, arriviamo insomma, intanto giusto per dare qualche dato, qualche informazione, fra il 78 e l'82 vengono registrati circa 40.000 attacchi armati nelle zone turco-curde. Quindi insomma abbastanza attivi, ecco. Insomma, sì, si sono dati da fare, ragazzi. Bravi. Lui in questo periodo, Öcalan, dato che la Turchia risponde con forza, dato che gli sta scoppiando sostanzialmente una guerriglia in casa, risponde con forza, Öcalan si trova costretto a scappare, lasciare il paese e si rifugia in Siria. La Siria lo accoglie anche perché in quel momento c'è una contesa di alcune zone con la Turchia, c'è un po' di maretta, c'è della tensione, in particolare per la costruzione di una diga sull'Eufrate, insomma se lo tiene Öcalan. Grande classico, il nemico del mio nemico è un mio amico. Grande classico. Questa è una frase di Mao Zedong, tra l'altro. Davvero? Mazza! Quindi, fino a che nel 98... si trova costretto a lasciare la Siria. Gira un po' in diversi paesi, passa in Russia, fino a che passa dall'Italia, dato che gli viene negata la protezione da diversi paesi, paesi come la Germania, gli negano la protezione, nonostante il ministro Schröder, che non è il cattivo delle tartarughe ninja, ma è rimasto il primo ministro tedesco, tanto per tipo 30 anni. Io mi ricordo sempre tantissimo. Che quando ero un bambino era sempre Schröder. Questo Schröder faceva tutto. Ci dicono che non ci sentono. Se qualcuno invece ci sente, lo dica e ce la faccia sapere. Boh, qui vediamo che lucette strane non ne abbiamo. Mi senti? Ci sentite? Mi sentite? Citiamo Lorenzo. Ma scusami Davide, tu continua. Io provo a fare una prova di ascolto dei miei soliti canali strani. Ok, tu fai. Quindi siamo arrivati, abbiamo detto, abbiamo fatto un piccolo, una piccolissima introduzione sulla nascita del PKK, il movimento studentesco, il colpo di stato militare, l'inizio della guerra e della lotta armata all'interno della Turchia, all'opera del PKK. Prosegui, io invece vado a vedere se ci sentiamo. Prosegui, speriamo che qualcuno ci senti. Mi senti? E fino a quando, appunto, viene negata la protezione in Germania, ma non viene firmata e rettificata il mandato di cattura, perché probabilmente per una questione di problemi di equilibri interni, dato che in Germania si trova la più grande comunità turca del mondo e un quarto di queste persone sono curde, quindi insomma ci sono decine e decine di migliaia di curdi in Germania e la Germania quindi non vuole destabilizzare troppo la situazione. In Italia ci rimane un paio di mesi, Ocalan, a cavallo fra il 98 e il 99, e attenzione, c'è un governo, Madonna, che si dice... Essere. Che si dice essere. Si diceva essere. Si diceva essere addirittura, forse, non solo di sinistra, ma forse addirittura qualcuno diceva comunista. Perché abbiamo il governo D'Alema, governo tecnico, dato che era saltato il governo Prodi. Ovviamente il governo tecnico, ci mancherebbe. Con al ministro degli interni, vuoi dirlo tu Gulli? Un po' me ne pento, ma Ernesto Oliviero. E non ti pentire, c'entri un cazzo. È lui, tu. È giusto, Ernesto Oliviero si chiamava. Sì. Eri un bambino probabilmente. Che sì, cazzo? 98 avevo un po'. Dai, eri un infante, sei innocente. Vai, continua che dopo c'è una chicca, ragazzi, vai. Che vi propongo. Bellissimo. Io anche ne ho un'altra. Vai, vediamo se è la stessa. Vediamo chi... No, non è la stessa. Chi chicca di più. Non è una chicca solitaria la mia. E quindi abbiamo un governo appunto di... Un governo tecnico di sinistra, addirittura diciamo dai colori rossastri. Quando Ocalan viene sostanzialmente consegnato alla CIA, nel senso che viene scortato in aeroporto dalla Digos, e, dato che un paese europeo non poteva consegnarlo direttamente alla Turchia perché era contro i trattati sui diritti internazionali, perché in Turchia c'era la pena di morte, quindi non poteva essere consegnato alla Turchia direttamente, quindi cosa succede? Che l'Italia sostanzialmente lo fa sparire e ricomparire a Nairobi, in Kenya, dove viene arrestato. Durante il suo arresto Ocalan insomma, lancia un appello rispetto alle responsabilità multiple di vari agenti internazionali e dà la colpa ovviamente all'America, alla Turchia, ma anche sottolinea molto il ruolo della Grecia e spiega anche il coinvolgimento di Israele in questa operazione e condanna la Germania, insomma sottolinea i molti attori che ci furono e anche la presenza di agenti di Gladio in Italia. Questo poi queste cose si sono state ma Gladio era ancora presente in Italia dopo la fine della guerra fredda? Ma lui infatti fa queste dichiarazioni, sarebbero un po' difficili da io sto... Sì, infatti è stranissimo perché Davide si tiene davanti uno schermo aperto a cui legge palesemente ma che non parla di nulla di quello che sta dicendo adesso, cioè parla sempre ovviamente di PKK ma è su un'altra parte di quello che dobbiamo fare dopo. Fisso lo schermo. Come fai? Sì, perché è stranissimo. È un altro linguaggio. Tu leggi un'altra cosa che c'è scritta che c'è soltanto nei tuoi occhi. Sì, tutto esatto. È un effetto ottico. No, in realtà è solo per così fisso un oggetto, ma non leggo. E Ocalan dice questa cosa. Sì. Poi non è stato accertato. Comunque lui parla di Gladio. Sicuramente c'era la Digos. Sì, sempre. C'è sempre di mezzo. Infami, Massimo ha fatto le foto. Infami di qualche genere, sicuramente c'erano dietro. E niente, fino a quando viene sostanzialmente arrestato e portato in Turchia nella prigione fortezza che conosciamo, dove è rinchiuso da 20 anni. Da dove però riesce a scrivere moltissimi libri di assoluto valore. E tramite i suoi avvocati ha iniziato uno scambio di materiale, una diffusione di materiale, tra l'altro anche uno scambio di lettere con alcuni riferimenti internazionali del pensiero rivoluzionario che hanno portato anche a influenzare la linea del PKK. Ma una qualche perla per caso? Due perle, appunto, primo queste lettere se le scambia anche con lui. Lui l'altro. Lo vuoi dire tu? Dillo tu. L'altro lui. Non quello lì. Non quello là. Quello là era morto nel 56, quello, quindi anche se era la sua fonte di disperazione. Ah, ma di baffone dici tu? Sì, certo. Ah, ok, no, 53. Ma stavo lui. No, non so chi, dillo tu, che cazzo. Allora, Brian Book ce l'è morto nel 2006. Okay. Lui è stato arrestato nel 98, verso il 2004-2005 inizia a scambiarsi delle lettere con Bookchin, che trova tra l'altro lo scambio estremamente proficuo, dice il filosofo americano. E scienziato politico americano, però ma lui purtroppo nel 2006 sì, okay. Te giuro. No, invece la chicca che volevo raccontarvi è una cosa molto interessante. Se andate su quel bellissimo portale internet che è YouTube, scrivete nati sotto segno dell'ariete, voglio farvelo vedere in diretta, non potete vederlo, lo vedrà Davide per voi stavolta nati, guardo lo schermo e sotto leggo. Il segno dell'ariete. Vedete il video di una bellissima azione fatta dai compagni romani, se non sbaglio, il cortocircuito, che purtroppo per, diciamo, in protesta all'arresto di Öcalan nel 98, fanno un corteo, fanno un presidio che poi si trasforma in corteo, che punta prima l'ambasciata turca, ma vengono respinti dalla polizia, allora a quel punto si dirigono alla sede della come si chiama Turkish Airline, sì, la compagnia di aerei, cioè compagnia di viaggi, esatto, la compagnia aerea turca, compagnia aerea, sì. E niente, succede che si portano dietro un ariete autocostruito e sfondano la serranda della Turkish Airline. Ci sono anche delle video, molto immagini. Carino, che hanno anche gli scudi, esatto, ci sono delle immagini per chi ama questo genere di un po' di riot porn, di storia, esatto, di riot porn. C'è una bastonata rifilata a un ufficiale di piazza della polizia di stato, che rimane negli annali perché ovviamente gli avrà frantumato il braccio. E niente, hanno fatto questa azione con effettivamente una capacità di tenuta importante, vanno un pochino a vendicare l'arresto di Öcalan. Sì, tra l'altro, visto che insomma raccociti gli scontri e le proteste a Roma, in quei giorni ci furono proteste in moltissime città: Londra, Copenaghen, Stoccolma, Vienna, Ginevra. Intanto si bruciarono tre attiviste curdi, si diedero fuoco per protesta. E poi in varie città, per esempio a Londra, viene assaltata l'ambasciata greca, uh-huh, e viene preso in ostaggio un ambasciatore greco. Perché appunto Öcalan aveva dato responsabilità. Ah, la Grecia l'aveva abbandonata. Sì. L'aveva abbandonata, sì, scusa. Esatto. E poi ci furono appunto proteste un po' in tutte le città europee, e nelle capitali soprattutto. Iniziarono grandi scioperi dalla fame di militanti curdi. E fu invece molto violenta la risposta che ci fu a Berlino contro i manifestanti da parte degli agenti israeliani. A Berlino cosa succede? Chiaramente, come dicevamo prima, c'è una grandissima comunità curda in Germania, a Berlino in particolare. Migliaia di manifestanti curdi si dirigono, durante la protesta contro l'arresto di Öcalan, due giorni dopo, si dirigono verso l'ambasciata israeliana. E degli agenti escono, sparano sulla folla e uccidono tre curdi, e ne feriscono altri 11. Israele fa schifo anche fuori casa, sì, non soltanto in casa. Sì, sì, questa cosa... prima, tra l'altro, cioè, la polizia tedesca si era asserragliata intorno all'ambasciata per difenderla, però quando poi si sono avvicinati i manifestanti, poi appunto gli israeliani hanno detto c'erano decine di curdi con i bastoni che si avvicinavano e abbiamo l'ordine di non avere ostaggi, no? Quindi loro hanno detto non possiamo avere ostaggi, abbiamo dovuto sparare. Dall'altra parte, chiaramente, alcuni manifestanti che raccontano gli avvenimenti, che non ci sono stati avvertimenti, e che appunto si voleva, cioè ci si stava avvicinando all'ambasciata e basta, e quando gli ha sparato contro. Questo mamma mia, un po' è successo in quel periodo. Era questa l'altra chicca che non si sa, perché, no, perché poi è interessante per anche la questione curdi palestinesi, nemico comune Israele in quel momento più che altri momenti. Davvero, davvero, una situazione veramente complicata e assolutamente interessante. Allora, finito questo secondo blocco, tra l'altro con una sovietica disciplina ogni quarto d'ora, noi possiamo regalarvi un secondo brano, è stato dalle fantastiche miniere della nostra libreria musicale. Ci andiamo ad ascoltare un canto che viene da Rojava, un canto per Kobane, anche qui purtroppo non leggiamo il titolo perché sarebbe un insulto a chi conosce questa lingua, per cui lo mandiamo in playlist. e lo mandiamo in esecuzione in questo momento. Buon ascolto, a tra pochissimo. Adesso tolgo, adesso tolgo. Prego. Vi invitiamo anche voi un rispettoso ascolto. Non provate a cantarla perché insomma anche complicato. Anche vi arrotolate la lingua. که چو خورتن شورش وان که چو خورتن شورش وان ده پاره زرنی وشتی من ده پاره زرنی وشتی من ناترسش کچکه و وان ناترسش کچکه و وان هم در خیلی جاقا بابان هم در خیلی جاقا کالان بیجی بیجی رو جاوا بیجی بیجی رو جاوا شبوی ته جانه مفدا شبوی ته جانه مفدا پریشن دشمن بون بالا پریشن دشمن بون بالا کرنو مالا و آبا کرنو مالا و آبا کچو خورتن قهرمان کچو خورتن قهرمان شردکم با کردستان شردکم با کردستان شبوک زاروک بکشیان شبوک زاروک بکشیان حاضرن ببن پاکلوان حاضرن ببن پاکلوان قامشلو و فینکو بانه قامشلو و فینکو بانه آموده دریک هسکه آموده دریک هسکه تربس بی سر کانیه تربس بی سر کانیه بیجی رو جوای کردستانه بیجی رو جوای کردستانه چو خورتن شورش وان که چو خورتن شورش وان به بحر زمینیشتی من به بحر زمینیشتی من ناترسش کچکین هوان ناترسش کچکین هوان ام در خینین جاها کالان ام در خینین جاها کالان Eccoci tornati. Mentre Davide cerca di riattaccare le luci qui alla radio, perché sennò siamo venuti alla semi-oscurità ormai. Questo è un compito che di solito è tuo, quello di attaccare. Esatto, esatto. Mi sono rifiutato di farlo per fare il schifosissimo speaker. Continuiamo a salutare il pubblico che ci ascolta qui con noi in radio. E proprio qui con noi nella stanza della radio. E accende la luce e la luce si accende quasi. Va bene, allora abbiamo fatto una piccola rapida introduzione della vicenda del popolo curdo in quella zona del mondo. Comunque, prima di chiudere la parentesi musicale, che stavamo ascoltando un brano della Madonna poco fa, poc'anzi. Vero, vero, vero. Cioè, notare la connessione con direi il rap americano, cioè sì, sì, Eminem. Gangsta rap, esatto. I colpi di pistone sotto cazzo, fondo. Cazzo, Eminem ha palesemente copiato i curdi. Cioè, con le rivolverate. Esatto. Pazzesco. Caricatori che si svuotano. Bello. E va bene, stavamo dicendo, abbiamo fatto la nostra piccola ricapitolazione storico-socioculturale per inquadrare la zona del mondo di cui parliamo stasera. Abbiamo svelato il nostro fantastico tema che è il PKK stasera, abbiamo parlato del suo fondatore, abbiamo dato un minimo di storia del partito e ora siamo arrivati al dunque. Sì, il dunque è la svolta, diciamo il cambiamento ideologico che c'è stato dentro il PKK fine anni 90, inizio anni 2000, quando dopo l'arresto di Öcalan inizia un fitto scambio di lettere con Butchkin, che era stato marxista a sua volta in passato, ma si era avvicinato a posizioni libertarie. Butchkin sostanzialmente vede la lotta per salvare l'ecosistema come uno strumento molto, molto funzionale alla lotta rivoluzionaria, perché dice che è intrinsecamente anticapitalista, perché può unire il mondo degli sfruttati e chi subisce l'alienazione. Quindi questa visione post-capitalista di Butchkin trova in Öcalan grande attenzione. Secondo lui bisogna costruire dei comuni, no? Delle municipalità che siano ecologicamente sostenibili, municipalità autonome che sostituirebbero le grandi città, che per come sono strutturate sono produttrici di grandi disuguaglianze, minacciano l'ambiente, sono un ostacolo alla democrazia diretta. E per realizzare questa società Butchkin preferisce una combinazione di azione politica e organizzazione, diciamo, per creare una cooperazione e associazioni democratiche. E in questo Öcalan appunto fa anche una cosa importante, che è diciamo un'autocritica rispetto ai limiti che ha avuto la propria organizzazione negli ultimi anni, che non è una cosa per niente scontata e una cosa che insomma è anche un atto di coraggio e di forza cambiare in questo modo la propria ideologia fondante. E in questo periodo inizia viene data molta più attenzione al concetto della rivoluzione delle donne, ma in realtà già negli anni 90 vediamo una partecipazione femminile molto importante dentro il PKK, ma invece in questo periodo viene un po' sviluppata una filosofia una teoria rispetto alla rivoluzione femminile e al ruolo che deve avere per spezzare il capitalismo e il patriarcato. Tra l'altro, per fondare questa ideologia lui fa un po' una ricostruzione storica del neolitico, le società matriarcali per certi versi vanno a pescare anche quasi in una componente mitologica, che però insomma... La scienza delle donne, stai parlando, giusto? No, in questo momento in realtà stavo parlando un po' dell'analisi del neolitico che lui fa e delle società matriarcali e del ritorno al passato, in questo senso intendevo la componente mitica, no? Cioè, una volta spezzato il capitalismo, c'è la possibilità di un ritorno al passato dove si possono ritrovare i valori tipici della popolazione curda, che sono stati poi inquinati nei millenni dalle varie nazioni. Quindi, in un certo senso ci sono delle novità, ma per alcuni versi c'è una continuità, questo collegamento comunque all'identità curda, che prima era in veste nazionalista, adesso è in questa veste un po' mitica, dell'ideale puro del curdo che viene da una società matriarcale, no? Molto antica. In questo senso mi riferivo appunto a questo aspetto. No, e poi viene fondata, sì, la scienza delle donne, che viene vista come comunque un'identità specifica, no? Quindi vengono date delle caratteristiche specifiche alle donne, che hanno quindi una funzione rivoluzionaria in quanto tali, e quindi vengono anche considerate come insomma detentrici della vita e altri concetti che però ovviamente vengono declinati in chiave rivoluzionaria, ma ecco, penso analisi di genere fatte nei decenni, no, nostre contemporanee, che sono andate ben oltre il binarismo di genere, avrebbero comunque molto da arricchire a queste filosofie che nel Medio Oriente invece stanno comunque dando grandi risultati in campo di emancipazione. Secondo me, cioè, parlando del passaggio tra stalinismo, perché quello era, perché il PKK è nato è nato in forte relazione con l'Unione Sovietica, fin dall'inizio aveva una struttura gerarchica piramidale evidente, con anche un leader che ha scelto un look, diciamo, classicissimo nella storia dei partiti marxisti. Ancora oggi le bandiere con sfondo giallo riportano un ocalan con un baffo, secondo me, inequivocabile. Secondo me è interessante analizzare il cambiamento della linea politica nel momento in cui c'è stata sia un'elaborazione all'interno del partito, ma anche all'interno del suo leader, della figura e dell'organizzazione dell'organizzazione della propria organizzazione. Ovvero si passa ad essere un partito con una forte e granitica organizzazione, anche e soprattutto legata all'aspetto militare, che da sempre è stato uno dei punti fondamentali del PKK, perché venivano uccisi i curdi dall'esercito turco e veniva repressa la lingua, la cultura, il Newroz, cioè la festività più importante per i curdi, che sono tendenzialmente laici o laicamente musulmani, cioè musulmani ma non praticano, diciamo, una particolare connessione, sì, tra la religione e l'ordinamento dello Stato e della convivenza civile. Sì, poi ce ne sono sunniti, sciiti, poi ci sono, esatto, gli yazidi. Esattamente. Il Newroz veniva assolutamente vietato ed era la celebrazione del loro capodanno. Diciamo, appunto, in una forma partitica originale che era questa, si va a installare invece un pensiero libertario legato alle idee di Murray Bookchin, che capovolgono pesantemente l'organizzazione del partito. A me personalmente, nella mia schifosissima opinione personale, piace molto pensare che sia stato possibile questo proprio perché l'organizzazione di stampo stalinista ha reso possibile che sì, le singole parti, le singole comunità di curdi avessero in mente un concetto fondamentale, che è: dobbiamo essere organizzati per stare insieme. La cosa che è cambiata è che non prendiamo più l'ordine di organizzarci, siamo già organizzati, perché per decenni siamo stati abituati a essere organizzati dall'alto, ora siamo organizzati, restiamo organizzati tra di noi in una relazione. Secondo me è fondamentale comprendere le due parole che compongono confederalismo democratico, cioè l'evoluzione del municipalismo libertario operato da Ocalan. La prima parola è confederalismo. Confederalismo vuol dire che è una federazione di realtà e di comunità che si incontrano per sopravvivere assieme. Il concetto è, giustamente Davide lo dicevi prima, essere autonomi e indipendenti, parimenti bisogna essere insieme, se non si è insieme non si può essere. E questo secondo me è una cosa fondamentale all'interno del Medio Oriente, dove da ormai 50 anni ci sono guerre, massacri, devastazioni che nascono per ogni tipo di divisione etnico, religiosa, politica, sociale possibile. Ovvero vediamo lotte di classe tra chi è ricco, detiene mezzi di produzione oppure beni come i beni minerali sotto la terra, vediamo guerre di religione tra tutte le varie fedi e confessioni, che sono infinite, appunto giustamente Davide le citavi. Cioè ci sono gli yazidi curdi, ci sono siriani musulmani, ci sono siriani cristiani, ci sono libanesi cristiani o musulmani o di sette o di, come si dice, confessioni ortodossi, cadette, esatto, cadette delle varie religioni. Ci sono conflitti anche etnici, arabi contro curdi, contro turchi, contro chi si definisce palestinese. Ci sono stati qualsiasi tipo di conflitti. Andare a sostenere che l'unico modo per sopravvivere è vivere tutti assieme rispettando le singole autonomie e non avendo più uno Stato che impone di volta in volta la ragione dei più forti, cioè di quelli che sono al governo, è una cosa assolutamente dirompente. Sì, poi, e tu dici che è un retaggio dal tipo di struttura politica che avevano precedentemente? Secondo me la struttura politica organizzata, centrata, che è sopravvissuta al loro interno per 50 anni, ha fatto in modo che per loro fosse possibile immaginare un'organizzazione costante, non più 20 anni. Sì, 78-99, diciamo. Dici il passaggio quello. Sì, è vero. No, nel senso che, cioè, io vedo anche nei principi originari del leninismo, quello dell'autonomia e l'autodeterminazione dei popoli, cioè faccio fatica a concepire come lo stalinismo possa aver in qualche modo avuto un retaggio su questa cosa. Cioè, quello è l'organizzazione verticista del partito. Semmai, secondo me, ha avuto un'influenza nel portare, dopo che Ocalan ha avuto contatti con Bučkin, a convertire tutta l'organizzazione in quella direzione. Secondo me qui il retaggio, cioè Ocalan riesce a dei ripensamenti e trasmette a tutta l'organizzazione questa nuova filosofia che è più libertaria. Secondo me sta qui il retaggio, non tanto appunto l'unione e l'idea di cooperazione, perché secondo me quella invece è molto precedente allo stalinismo, anzi. Però questo è il mio schifosissimo pensiero personale, che su certe cose appunto sai che siamo divergenti. E per continuare, guarda, l'altra parola, democratico, laddove per democratico si intende, e questo invece c'è un legame diretto con Mukchin, cioè la vera democrazia. La vera democrazia non è governare secondo il parere di tutti, perché non ha alcun senso. La vera democrazia è governare nell'interesse di tutti, dicono gli scienziati politici nelle università italiane, ma per i curdi democrazia è governare con la partecipazione di tutti. E questo appunto è un legame diretto ai principi del municipalismo libertario, dove Bookchin afferma che bisognerebbe vivere un po' come si viveva, ovviamente con tutti i crismi di relazione temporale di sorta, nell'Atene prima di Cristo. Senza schiavi magari. Esatto, senza schiavi, dando la possibilità della partecipazione alle donne a ogni ambito della vita politica e sociale della società. Però insomma, laddove i cittadini erano liberi di partecipare, e anzi era loro diretta responsabilità partecipare alle decisioni della città, si aveva un governo che rispecchiava la reale partecipazione, rispettava la reale composizione e volere della cittadinanza. Il guaio è la delega, il guaio è la professionalizzazione della figura del politico, cioè come se l'organizzazione della società e la sopravvivenza della comunità dovesse essere questione di pochi, di chi se ne vuole interessare, mentre gli altri sono liberi di occuparsi di che scarpe comprare, quanto diventare ricchi, piuttosto che altre questioni. E questo viene ricreato nel Kurdistan, laddove la partecipazione è di tutti, cioè non ci si può esimere da partecipare a questa cosa. E anche lì è molto interessante, perché dico una cosa, poi ho smesso perché sto andando a fiume. Una cosa molto interessante: quando lo YPG, cioè le organizzazioni militari di difesa delle donne e del popolo curdo, andavano a liberare i villaggi dall'ISIS o le zone dal controllo dell'ISIS, chi viveva nei villaggi semplicemente si comportava come se, vabbè, abbiamo avuto la Siria, abbiamo avuto i ribelli siriani, abbiamo avuto l'ISIS, adesso vabbè, ci siete voi, diteci cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo convertirci, quanti soldi volete, perché abbiamo capito che qua ormai a ogni mese cambia vento, cambia giro e c'è qualcun altro che controlla. La cosa che faceva rimanere scioccate queste persone era che i combattenti in prima persona e le combattenti in prima persona dicevano: no, ora questa cosa si ferma. Ora questo qua è il vostro territorio, lo vivete da sempre, lo vivevano i vostri avi, adesso è vostro, lo decidete voi in relazione a noi. Il che vuol dire: imbracciate le armi, ve lo difendete insieme a noi, ma non pensate che veniamo noi a difendervi, lo faremo nell'ambito del possibile, ma non abbiamo la possibilità di difendervi tutti e tutte, dovete farlo da soli, prendete le vostre decisioni da soli, è ovvio, dovete partecipare alla nostra vita comunitaria, perché c'è chi ha il grano, c'è chi controlla una diga, c'è chi ha il controllo di una centrale elettrica, c'è chi invece fa altre cose, tutti insieme abbiamo una relazione possibile e una vita possibile, altrimenti no, non lo possiamo vivere. Una rete di comuni indipendenti. Esattamente sì, esattamente sì. Ma io non so tu quante altre cose avrei da dire. Io aggiungerei un paio di, cioè così, una piccola info. E aggiungi. No, nel senso che poi mi avvierei verso la conclusione, a meno che tu non hai un sacco di altre cose. Assolutamente. No, per capire il mood. Che cosa stavo per dire? Questa è una bella domanda. Che cosa? No, stavo per dire sicuramente una. Stai facendo il computer, ma non stai leggendo. Ma che bravo! Ma dillo. Ma forse stai leggendo. No, adesso un po' sì. Adesso un po' sì. Giro e vediamo cosa succede. Vediamo. No, quello che volevo dire è che una delle differenze rispetto ai decenni precedenti nella filosofia del PKK e in questo nuovo, diciamo, paradigma della rivoluzione libertaria, con un ruolo centrale delle donne e prima la liberazione nazionale di stampo socialista, è che in questo momento viene dato alle donne un ruolo simile che a quello che nel marxismo classico viene dato alla classe operaia. A me questa è una cosa che mi ha colpito, perché insomma quella che nel marxismo viene analizzata come una categoria sociale, una classe, questa novità le donne vengono proprio concepite come una categoria a sé, e come prima dicevo, un po' con delle caratteristiche specifiche, che un pochettino anche sfiorano il binarismo di genere, ma non sono esperto di insomma del pensiero Jean, quindi su questo sicuramente faremo dei collegamenti con le compagne delle ribelli. E quindi viene un po' dato questo ruolo importante nell'ottica del cambiamento sociale. E direi questo, perché invece quell'altra cosa mi è sfuggita di mente, se devo essere sincero. Attenzione, attenzione. Ma allora, vogliamo mandare un ultimo brano per poi tornare, fare gli ultimi aggiustamenti, le ultime precisazioni, un salutino e poi si va. Allora, fammi ritrovare la playlist perché l'ho smarrita tra le tante che abbiamo. Andiamo a cercare a eseguire quella lì? La canzone proposta da Davide. Quella bella? Esattamente sì, giusto? No, non è vero perché non ho finito di scaricarla perché ahimè il cosa... No, dobbiamo parlare qualche minuto mentre la scarica. Oddio. Siamo addormentati. Che agonia, tra l'altro, perché non mi ricordo quello che volevo dire prima. Che agonia. Dai, non essere agonista. Qua adesso chissà se si trova. Beh, comunque si potrebbe parlare ore e ore e ore con federalismo democratico. Manco perché ci avessi fatto la tesi, ecco, insomma. Non solo per quello. No, ma va, figurati, mica solo ma per anche quello. Per quello. No, comunque è estremamente interessante secondo me anche il fatto che Murray Bookchin ne parlava in termini ampi, cioè parlava del concetto di come fare a vivere insieme, Ocalan ha fatto lo sforzo di renderlo reale. E tra l'altro è divertentissimo leggere gli scritti di Ocalan perché sono degli opuscoli che durano in base tendenzialmente tra le 15 e le 20 pagine e sono, cioè, pragmatici a un livello devastante. Cioè, proprio il manuale prontuario per fare una comunità. Deve essere così, così, così, così. Mm-hmm. Non li riassumo con più specificità. Il libretto di istruzioni, potremmo dire, dell'IKEA. E hanno le copertine tutte colorate, sono tutti diversi, bellissimi. Ti è tornato in mente? E sai cosa ti dico? Mi è tornato alla mente quello che stavo per dire. Vai, dici, prima che sfugga. No, dicevo, allora, innanzitutto, a parte che adesso che parlavi di comunità, mi è tornato alla mente che esistono anche delle comunità di sole donne in Kurdistan, che nella maggior parte dei casi si occupano anche di curare i traumi da guerra, insomma, subiti dalle varie donne in combattimenti, insomma, in aggressioni, in invasioni. Comunque queste sono comunità femminili che hanno anche instaurato un nuovo metodo di lavorare. Per esempio, alcuni compiti agricoli che tradizionalmente venivano svolti dagli uomini, da un uomo, queste donne hanno adottato degli strumenti tecnici per, facendo in due il lavoro che prima faceva un uomo, perché proprio questi strumenti funzionano in modo diverso, poter fare tutti i lavori agricoli che vengono fatti, insomma, secolarmente dagli uomini, anche con un ritmo diverso, no? Quindi anche andando contro il concetto produttivista che richiede massimizzare lo sforzo. Questo quindi è un altro capitolo molto interessante. Invece la cosa che mi viene in mente, sempre rispetto al capitolo rivoluzione delle donne, è che anche al loro interno, essendo chiaramente una società patriarcale, e in questo ha avuto ovviamente un ruolo costituire una filosofia specifica per liberarsene, anche i curdi, essendo storicamente una società patriarcale come tutte, hanno avuto delle resistenze importanti, no, a queste novità. Tanto quanto raccontavamo nella prima puntata con nella Comune di Parigi, ci sono stati degli scontri pure sulle barricate con le comunarde che volevano partecipare e alcuni uomini che volevano comunque un ruolo di protagonismo nei combattimenti al maschile, come nella guerra di Spagna ci sono stati degli importantissimi episodi di lotta di guerrigliere, addirittura di comandanti donne, ma anche di uomini che dicevano: ma cosa state facendo? Insomma, una donna a comandare un plotone di uomini, insomma, delle resistenze che sono incontrate sempre nei decenni. Un articolo di Jacobin raccontava come anche la difficoltà ad avere un comandante donna, insomma, dare delle direttive a degli uomini, abbia portato la scelta di creare un gruppo solo femminile, no? In modo tale da, appunto. Però questa cosa qua è stato un passaggio per poi dare forza a un'ideologia che stava nascendo, quella della rivoluzione femminile, e quindi spostare sempre di più verso il passato e insomma e la preistoria, potremmo dire, quello che è il pregiudizio dell'uomo che non vuole farsi comandare dal punto di vista militare, ma quello poi è solo una punta dell'iceberg in tutti i rami della società. Yeah. Grazie dell'approfondimento, ci sta, interessante davvero. Prego. Tra l'altro c'è una rete a Milano che si chiama Rete Gin che parla proprio di questo tipo di scienza messa a punto dalle compagne curde, un processo di apprendimento costante, sì, per togliere atteggiamenti sessisti dalla propria vita. Che ricordiamo comunque è la caratteristica di avere una visione separatista, no? E quindi poi con tutte le implicazioni, con la possibilità delle compagne poi di riportare, no, i ragionamenti e le formazioni fatte, ma insomma ricordiamo un tipo di percorso specifico, no? Per quello anche prima accennavo, le visioni particolari che ci sono sulla donna in quanto ente a sé e non culturalmente prodotto, ecco. Va bene, ci ascoltiamo a questo punto la bella ciao cantata dalle donne del Kurdistan, anzi dalle donne di Kobane per la precisione. Riusciamo a skippare l'audio come sempre, eccoci qua. Eccoci qua. Beh, qua è necessario un ringraziamento ufficiale. Importante. Al compagnissimo Riccardo Sbadabing. Perché grazie, Sbada. Sul passaporto c'è scritto Sbadabing. E che cazzo? Diciamolo. No, grazie mille, sono grande. Ci ha fatto, insomma, il post. Post, il post sulla pagina della radio, meraviglioso. Dovete sapere che questa trasmissione è totalmente, totalmente a caso, nel senso che non riusciamo ancora a dargli una strutturazione programmatica fissa, per cui noi semplicemente compariamo in radio, iniziamo a parlare, non avvisiamo nessuno. E Riccardo è riuscito con la sua immensa capacità e il suo cuore generoso, secondo me dentro di lui si nasconde un comunista, ma lui ancora non lo sa. Non lo sa. E lui con quello generosità, dovrà pur dire, eh? Esatto, con la sua generosità ci ha regalato un post su Facebook così a caso, cioè mentre noi iniziamo a parlare. Però io qua devo fare un po' l'avvocato del diavolo. Pure gli anarchici possono essere generosi. Bravo, bravo, vero. Vero, verissimo, hai ragione, mi spiace, ogni tanto mi faccio prendere l'emozione, dico queste fesserie. E anche i non stalinisti hanno i baffi, Gulli. E l'abbiamo scoperto nella puntata di oggi. No, tu hai la barba, non è la mia. Io ho la barba, okay. Ho anche un po' i baffi. È vero, è vero. Però Chalan ha i baffi, non è più stalinista. Era questa la citazione, l'abbiamo imparato oggi. E possiamo anche imparare che dallo stalinismo si può uscire anche in meglio. Non soltanto essere dei pazzesco. Deficienti revisionisti. Pazzesco, su questo davvero... Siamo arrivati, posso chiudere sereno e andare a casa sereno, sapendo che Guglielmo ha questa prospettiva. Grazie a tutti e tutte che ci avete fatto, che ci avete accompagnato in questa oretta leggera, questa oretta di prosecchi, di biografie rivoluzionarie. Secondo me la prossima puntata si svolgerà con un Guglielmo in contumacia. Sì, saluti. A distanza, ma d'altronde l'internazionalismo è anche questo, è storie di movimenti, di spostamenti, e noi ci collegheremo da ovunque tu sia. Ma avverrà. Speriamo tu ti sposti verso est. Speriamo, ma vado verso ovest. Niente da fare. Occidente, ma una cosa occidente. Importante che si deve dire è che la prossima volta a questi microfoni c'era una nuova splendente voce, anzi sì. Forse anche due. Due, è vero, voce. Forse due, ma non so se tutte e due da qui o l'altra anche. Allora, qualcuno insomma, sarà qui presente a parlare. Comunque, possiamo annunciare che anche la puntata... Certo, vai, annuncia. Parleremo di un militante bolscevico, operaio, arruolato, insomma, è entrato nel partito bolscevico, è diventato un organizzatore, un agitatore, che è Babushkin, ciao. Babushkin. Oggi abbiamo parlato di Babushkin, la prossima volta di Babushkin parleremo della sua biografia, perché ricordiamo questo programma si chiama Biografie Rivoluzionarie. Oggi vi abbiamo provato a confondere, ma è così. Va bene, non ho più niente da aggiungere. Basta. No, non è vero. Si è offerta la compagna generosa, un'altra compagna. No, stiamo ancora parlando di lui. Lui. Chi verrà a parlare con Davide? Verrà un compagno del quartiere Gratosoglio, qui vicino, a est. È a sud. È a sud-est, però. No, è a sud. Orientamento. È a sud, sempre più a sud. E niente, ma diciamo anche il nome, no? Non è giusto. Sì, dai, con Mattia. Sarà anche Mattia presente. Gli faremo ascoltare il podcast dove lo infamiamo schifosamente. Compagno generosissimo. Dentro di lui si può dire che si alberga un comunista, perché... Assolutamente, dire. Dichiarato. Ma abbiamo anche avuto un endorsement, cioè una promessa di sostegno anche da altre persone, anzi da un'altra persona che si è offerta di farci delle letture. Wow. Rachele. Quindi, esatto, Rachele ci ha offerto di leggere per l'hai noi. L'hai detto, e ora sei stata annunciata. Sei stata annunciata, così io non presterò più la mia voce orrenda alle letture, ma arriveranno soltanto Davide e Rachele a leggere, che leggono bene, leggono bravi. Insomma, ci proviamo. Va bene, quindi prossima puntata. Ti ho visto, ti sei fatto un selfone. Ti ho visto. Manderemo questa come posta la prossima volta. E allora a questo punto lo faccio meglio, va. Vai. Niente, dicevo, settimana prossima con Davide, Mattia e Rachele, Biografie Rivoluzionarie, la storia di un militante bolscevico, Babushkin. Perfetto. Ciao a tutti e tutte, buon ascolto, adesso torniamo un brano e poi torniamo alla programmazione dei podcast della domenica di Radio ZM.